io so cosa c'è dentro te. Una nostalgia che sale, che ti prende la mano. Mai penserei di andar via. Sai che tu sei proprio mia. Questa notte che ci prende e ci porta via lontano. E allora vai, lasciati andare come non hai fatto mai in questa vita d'amare. E cerca degli sbagli, no, non saremo mai perfetti. I nostri sogni in un cassetto, vedrai domani nasceranno. So, questa vita è così dura, ma no, dai, si può vincere anche la paura. We'll be right back.